Hashtag Autotrasporti. Hashtag Autotrasporti del sabato, buon pomeriggio da Andrea Ferro. In apertura una notizia di queste ore. Martedì 23 giugno a Roma il ministro Graziano Del Rio incontrerà i rappresentanti delle associazioni degli autotrasportatori che sin dai primi giorni del suo insediamento avevano sollecitato la convocazione. Nell'incontro si parlerà delle questioni al centro dell'attenzione del comparto, dal rispetto della legalità alla concorrenza sleale indotta dagli operatori stranieri. Da tempo le associazioni sottolineano l'urgenza che il governo vari un piano organizzativo di riforma del settore del trasporto merci e della logistica, così come sta avvenendo per la riforma dei porti ormai in dirittura d'arrivo. Un'altra notizia di queste ore riguarda il contratto di lavoro degli autotrasportatori. Con una lettera inviata ai sindacati di categoria, Unatras e Anita lo hanno disdetto, ponendo come termine il 31 dicembre 2015. In una nota è stato spiegato che l'obiettivo è giungere ad un contratto nazionale unico per i lavoratori del trasporto merci e della logistica. E sempre da parte di Unatras è stata espressa preoccupazione per la mancata definizione da parte dell'Agenzia delle Entrate delle agevolazioni per gli autotrasportatori relative alla deduzione forfettaria di spese non documentate. Secondo il presidente Amedeo Giannedani, questa situazione di incertezza penalizza le piccole e medie imprese, per le quali le deduzioni rappresentano una boccata di ossigeno per resistere alla crisi economica. E ora andiamo nel porto di Genova, dove a maggio è scattata la prima fase del nuovo sistema di accesso allo scalo. Una volta che entrerà a regime, gli ingressi dei mezzi pesanti avverranno attraverso badge digitali collegati ad una specifica applicazione web e a un call center. Il presidente dell'autorità portuale Luigi Merlo ci aggiorna sull'evoluzione del progetto. E ora si fa la parte informativa, in modo che poi si possa operativamente partire nei prossimi mesi, insomma. Si fa una fase di divulgazione, in modo che ci sia il tempo di. Dopodiché 5.000 autotrasportatori hanno già a disposizione il badge e si fa attraverso anche la collaborazione con le associazioni di categoria la massima divulgazione, in modo che ci possa essere la diffusione totale una volta che c'è un vantaggio per tutti dal punto di vista della tempistica. Io penso che a pieno regime si possa dire tra tutti entro la fine dell'anno, verosimilmente, in modo che ci possa essere, come dire, un test complessivo su tutti i due parti di porto, San Pier d'Arena e WTE. Però da questo punto di vista sono convinto che la cosa funzionerà molto bene. Dai porti alle autostrade, questa volta partiamo dal nord-est. A Roma il ministro Del Rio ha ricevuto i presidenti delle province autonome di Trento, Ugo Rossi, e di Bolzano Alto Adige, Arno Kompatscher, per discutere sul futuro dell'autostrada del Brennero, la A22. Sullo sfondo l'articolo 5 dello Sblocca Italia, che riguarda la proroga delle concessioni autostradali, norma che il governo pare intenzionato a rivedere dopo varie obiezioni, a partire da quelle mosse da Bruxelles. Nel caso dell'autostrada del Brennero, l'accordo raggiunto da proporre alla Commissione europea d'intesa con la Regione Trentino Alto Adige è quello dell'affidamento in-house, cioè alla stessa società che la gestisce, l'Auto Brennero, controllata dagli enti locali. Dal nord-est al sud torniamo in Sicilia, dove a più di due mesi dal blocco della Palermo-Catania il cantiere per la costruzione della bretella non è stato ancora aperto. A questo punto il bypass potrà essere realizzato non prima di ottobre-novembre. Nel frattempo le conseguenze dell'interruzione dell'A22 diventano sempre più pesanti, in particolare per la filiera agroalimentare. La Coldiretti ha chiesto che il porto di Augusta diventi una base di partenza via mare delle merci. Confindustria, Palermo e Catania hanno annunciato l'invio di una diffida ad ANAS per richiedere il risarcimento dei danni provocati dal blocco dell'autostrada. Un salto all'estero, prima in Germania, dove a tappe prosegue la rimodulazione delle tariffe dei pedaggi. Dal 1 luglio il pedaggio chilometrico per i mezzi sopra le 12 tonnellate verrà esteso ad altri 1.100 km di strade federali. Ad ottobre toccherà pagare anche agli autocarri di massa complessiva a pieno carico di 7 tonnellate e mezzo. E sempre ad ottobre le classi di pedaggio passeranno da 2 a 4, modulate sul numero degli assi e sulla classe euro dei veicoli. Ora in Scandinavia, per monitorare il cabotaggio stradale, cioè la possibilità delle imprese di autotrasporto di operare nei paesi esteri, l'università svedese di Lunden ha fatto ricorso ad una app per smartphone utilizzata da 8.000 autisti volontari, oltre che svedesi, danesi e norvegesi. Quando incrociavano un mezzo straniero, memorizzavano la targa inserendola in un archivio. Questi i risultati. I mezzi controllati provengono prevalentemente da Polonia, Bulgaria e Lituania. Infine una notizia di servizio. Dalle 22 di martedì 23 giugno alla stessa ora di giovedì 25, sulle autostrade le stazioni di servizio saranno chiuse in seguito ad uno sciopero proclamato dalle organizzazioni di categoria. Mi fermo qui per parlare di autotrasporto. Noi ci risentiamo lunedì sera alle 21.45 dopo Effetto Notte. Grazie per l'attenzione, da Andrea Ferro, buon pomeriggio. Hashtag Autotrasporto.